poi guadagno qualcosina anche, no? Vai Tony. Ho detto me la studio bene, perché allora devo studiarmela a fondo. Ma non mi sentite? Ricomincio. Tra l'altro, io sono voglio vedere cosa mi comporta, perché prendo la pensione. Cioè, questi passaggi me li devo fare per forza, non è che uno a caso fa i bigliettini, poi lo sgamo il giorno, tutto lavorando in nero, è casino, no, tu sei cassato tutti. Cioè, sai benissimo, anche se incassi un centesimo, sei già sotto in nero, quindi deve essere certificato. Quindi io prima mi voglio ripeto, saperne molto di più su questo fatto qua, e poi allora inizierò a fare qualcosa, se come dico io, se no niente. Comunque ci sono delle break, c'erano break, avanti. Sì, capo, buonasera a tutti, da questa parte Antonio. Se dici un travaglio, vai a far tiro a tutti i dinni, non ti mettere problemi. Ciao Antonio, ben entrato. No, non sono zitto, non ho bisogno. Io voglio fare una cosa in grande, ripeto. Il mio concetto è tutta la cosa di prendere anche qualche altra persona, eccetera, eccetera. Però che sappi fare il lavoro, se non lo farò io, non c'è problema, capito? Voglio fare una cosa giusta, leale, con tanto di fattura, con tanto di iscrizione a Camera di Commercio. Quindi, perché mi sto annoiando? E questo lo farò per un annetto, eppure me ne parto, non torno mai più. Me ne vado a Tenerife e vivo là. Fai così, fai. Fai così, No, vabbè, già si può fare già. C'è gente che sta ancora lavorando, ha deciso così. Io sono in pensione, quindi automaticamente mi voglio coprire queste ore buttate che sono, quando non stai facendo niente, sto fatto. Già ne ripeti. Ma non eri impegnato, Turi, non stai facendo dei lavori. Sì, finiti, dopo quando sono finiti, finiscono in fretta. Incassi, poi la fine finisce in fretta, cominciamo, dopo la va. Giri un po' la Sardegna, di anni in giro, che è bello, da scoprire i posti. No, tu, lascia perdere che a me, io a girare ho girato anche troppo, basta, adesso è... mi devo dare a fare, ma questo sì. Avanti Giulio per Antonio. Ok, ciao a tu, ben entrato. Beh, anche io dico così, se te la senti fare questi lavori, parli tu e basta. Stai a senza nessuna iscrizione a putidini, vai e fai piccoli lavori così che vuoi che ti possano cercare e trovare. Poi quando vai a casa del privato direttamente, non hai niente da aver paura, cosa mi desideri. I grandi lavori ti comportano grandi impegni, grandi spese, soprattutto se fai l'iscrizione poi a grandi tasse. Vai a rotonda così, con le piccole cose, se ti viene meglio e sei più tranquillo e non ti metti problemi. Mentre in qualche maniera i problemi te li metti di sicuro. Visto considerato che ormai sei in pensione, non hai necessità di fare nessuna iscrizione per fare fatture e balle varie. Vai a fare questi lavori, quando ti capita uno ti chiede di verniciargli un portone, vai e verniceglielo. Cosa sai chi batterà la longa? Non ci pensare due volte, che così non hai niente da perdere. E oltre, ripeto, che passi il tempo, è anche un divertimento, diventa, e poi guadagni anche qualcosina. Io la vedo così, Tony. Ok, però io questo lo sto pensando, va a essere più in regola, perché ti spiego cosa è successo a un ex collega mio. Lavorava con noi, gli ho citato un bel lavoro di muratore, lui era muratore specializzato. E... si è messo d'accordo con questo, dice guarda che io non mi posso fare fattura, sto lavorando, perché non ci sono problemi, guarda, quando mi prendo a fare questo muro, fare questo, fare quello, insomma, roba di 5.000 euro. Bene, ha fatto tutto il lavoro, tutto, finito, ho detto, io ho finito, lui se mi paghi, e mi ha fatto, mi devi fare la fattura, se no non ti paga. E se insisti ti posso anche denunciare, perché tu hai lavorato in nero, è successo un casino, guarda, per poco lo metteva la mano addosso. La ragione passava addosso. Quindi ci sono queste persone che ne approfittano, che dicono sì, tranquillo, non so, come puoi fare la fattura, poi alla fine, quando devi incassare, ti dice no, io voglio la fattura, devo caricare. E ti mette un bel problema, capito? Perché se lo documenti troppo, ne puoi fare tanto e lo prendi. Lo so, Tony, lo so, ci sono quelle che poi magari ripicca o perché sono disonesti, non ti vogliono pagare perché ti vogliono la quantomeno non ti dovrebbero pesare più di tanto, nel senso che tu fai piccoli lavoretti, se tu vai a cambiare una maniglia, cosa vuoi che hai perso? Non te la puoi nulla, compri la maniglia, duri lì, così compri la maniglia, poi lei mi chiama, vengo gliela piatto, dico la maniglia per dire la serratura o per chiudere una porta e vale varie, e dunque non perdi niente di materiale, di spese da tasca, tu non fai niente, al limite se tu vi disonesto magari non ti paga la manodopera, ma non hai perso più di tanto, per cui se poi ti paga è qualcosina che l'hai guadagnata, non c'è problema, io la vedo così. Oggi aprire una piccola impresa, anche se in regola è un casino grande, troppe tasse, Tony, troppe tasse, troppe cose, troppe, e poi penso che ti riducano anche la pensione, se tu ti fai un'iscrizione come artigiano, guarda, penso che ti riducano anche la pensione, almeno fin quando non sarai iscritto, perché stai lavorando, credo che sia così, adesso non mi ricordo bene come funzionava, però mi sembra che una volta era così, era. Poi magari quando chiudi di nuovo la partita IVA, allora ti danno di nuovo la pensione normale, quello come deve essere. Vai Toni, fai girare il punto d'Antonio. Infatti mi sono credendo, già lo sai, è del mio pedina, ma non è grazie del poco. Ma io, grazie a Dio, con la pensione che ho, no, per la pensione non entro per gli artigiani, che danno poco. Ok, già di ripeti poi fai girare per Antonio. Cappala. E vabbè, io adesso vi lascio, dai, che devo fare un contest, quindi vi lascio e vi saluto, vi auguro una buona continuazione, grazie per il questo. Ciao a tutti, ciao Antonio, ci sentiamo, ciao. Ciao, ci sentiamo alle prossime, avanti Tony. Siamo sopra popolati, ciao Gianni, buon colletti e tra più spesso, alle prossime, anche Giulio. Ok, ciao già, ci sentiamo alle prossime, allora. Fate sentire, io tante volte anche la mattina faccio chiamate ma non c'è mai nessuno e allora spengo e non se ne parla più, però faccio chiamata più volte, tu mi dirai, ma bisogna combinare un orario perfetto per poter rispondere, certo hai ragione, ma comunque durante la mattinata almeno 3-4 volte chiamo, non c'è mai nessuno e altrettanto faccio la sera, poi quando ho la fortuna di sentire qualcuno allora mi trattengo con 4 ore, mezz'ora, fin quando mi accompagna la voce, poi quando comincia ad ammassarsi allora la devo chiudere per forza, se no divento poco taciturno. Va bene, dai, comunque andiamo a muovere la testa, adesso tra un po' devo anche staccare e devo andare a dare un'altra mano di tinta all'acqua, io un lavoretto che ho fatto sui Massanda, così almeno me ne libero stasera stesso, se no mi tocca di riprendere domani, mi tocca di riprendere. Avanti Tony. Poi io ce l'ho un'idea intelligente. Va bene, già ti ha fatto un po' di tic. Adesso vabbè, ti lanciamo Antonio. Dentro a tu, qualche novità stai facendo, qualche lavoro extra? No, già stavo lavorando ieri stavo montando, stavamo in un altro capannone perché tra un po' inizia il tour dell'azienda, stavo montando lì l'impianto, la struttura, tutto lo ring, perché dovevo fare le prove, poi il 20 c'è la prima serata ufficiale a Ussi, mi sa che devo andare a Ussi il 20. Però io ce l'ho un'idea, non vuoi bagattarsi? Benissimo, ti apri un circolo, ti apri, cioè magari lavori solo la mattina o la sera, scegli tu per lavorare un altro, non paghi dazi, non paghi nulla, soldi puliti, cazzo, non devi andare a contare nessuno, non devi spaccare gli yo-yo, capito? Fine settimana fai karaoke e guadagni bene. No, a me ci sono mai piaciuto. Non ci ho mai frequentato, non ci frequenterò mai, non mi piace proprio zero. E chi ci va nei circoli? Gente che mizzi, poi c'è quello che fa vino cattivo, no. Non voglio fare i lavori che ti competono, il mestiere, la specializzazione, e altre cose no. Quindi quello che so fare bene, l'ho sempre fatto. Io ho un lavoro che ho fatto, la signora ha preso 750 euro soltanto di materiale e ogni fine settimana mi dava l'acconto 500 euro. lavoro mi ha dato un 100 euro extra, perché è rimasta contenta. Io ho detto, guarda, mi ha pagato abbastanza bene loro, non ci preoccupi, sono contentissima, caspita. E niente, niente, lavori infatti come sto già con Giulio, sì, serrature tapparelle, placaggi, roba elettrica, idrica, di tutto, questa roba qua non c'è problema. Anche tinteggiatura, no, non ho problemi. Io ho 24 quasi 25 anni che lavoro per la provincia, nelle scuole superiori. Quando facevo poi una verifica di tutto quanto elettrico idrico, non c'era niente da fare, mica mi mandavano a casa. Dicevano, oh, vuoi finire un po' per passare il tempo? Mi ha dato, non sai successo, perché no? No, non ti guarda niente, no? Pitturato, c'è stato tapparello, c'è stato serrature, cambiate la linea, eccetera, eccetera. Quindi, anzi, ho acquisito uno molto, diciamo, che per fare con la bolla, oh, e poi però piano invece ho imparato, e grazie a Dio me ne faccio un più. E dirò che, come dicono, imparate mentre la fate, io giustamente ho imparato molto, molto a parte dentro lo spaduccia, ho imparato molto sull'idrico, ho imparato molto sui serramenti, e sono molto fiero e contento. Tutto qua. Ok, Giulio, ti prendi. Ok Tony, sì, ma è così appunto, so che sei una persona molto eclettica, dunque sai fare un po' di tutto, per cui sempre ti capita, e poi con l'andare del tempo le persone mi conosci proprio a prima vista, appena che mi vedi sai benissimo quali sono le persone che puoi servire, le persone che invece devi lasciare perdere, perché perlomeno io avevo fatto una certa esperienza. Quando mi veniva un cliente che capivo, cioè che entrava da me, già capivo subito se con quello potevo prendere 5 minuti per parlare di lavoro, seppure lo liquidavo subito, perché magari mi era sembrato un tipo un pochino losco. E allora via, e ho sempre funzionato bene, alla grande. Perciò anche tu già sei in grado di capire queste cose, quando ti ci presenta una persona, ti rendi conto se quello è sincero, se non è sincero, se merita di essere servito o meno. Per cui se merita di fare il lavoro e basta, gli dici quanto vuoi prima, senza stare lì a perdere tanto tempo, gli dici che è tondo, e lui magari ti dice ma mi sembra un po' troppo, guardi io il lavoro lo faccio bene, se gli dici va bene questo, non sono né napoletano e tantomeno senegalese per fare contratti di lavoro così alla carola, per me ci vuole quello, se gli va bene glielo faccio tranquillamente, compro il materiale e poi io mi chiamo, vengo e glielo faccio. Tony, tu non anticipare mai niente, Tony, non mettere mai un centesimo di materiale, fanno sempre anticipare a loro, perlomeno gli dici, i soldi lo compro io il materiale, allora sì, però tu non devi mai mettere niente nella tasca. No, però ho sempre fatto, una volta sola in vita mia mi hanno bruciato Giulio, ma avevo 26 anni e da quella volta ho imparato molto, assolutamente, prima di nessuno, quindi mi dà la conto che compro il materiale, sì, quanto vuole, tot. Allora. Ma me, ripeto, proprio se consiglio almeno la persona che non... Sono sempre clienti in gamba, diciamo, una persona che è seria e proprio che non ne ho mai avuto. Niente, adesso che ho finito questi lavori qua, quando mi trovo di non fermo, mi sto inventando qualcosa da poi a casa in campagna, però ora che fine dico, ma insomma, non mi si usa di lavaggio, devo muovermi un pochettino, dai. E quindi sì, in effetti. Devo fare un paio di telefonate, persone che conosco e sì, un po' di bigliettini mi sa che le faccio così almeno, perché molti non se lo ricordano il mio numero di telefono, capito? Va bene Meda, ok, quindi lavori con i tazzetta praticamente, Antonio? Non ho capito. Lavori per i tazzetta? Sì, anche. Anche per l'azienda. E io conosco Gigi Cameda da quando aveva 7-8 anni, fate conto, quanti anni lo conosco Gigi Cameda. E si è preso anche la casa, si è comprato in corso 30, so anche dove, quindi una vita lo conosco, anche la buona della madre, ma non c'è più, poverina. Sì, Sì. Io lavoro per loro, lavoro anche per loro. Per i Bertas, per un sacco di cantanti. Poi abbiamo fatto un sacco di cantanti grossi. Abbiamo fatto. Perché io sono... Allora, generalmente io lavoro in prima struttura, lavoro. In seconda sono in azienda, ma... Cioè, ne ho fatto un po' di meno, ne ho fatto io. Però, sì, lavoro anche per loro. Ho fatto una serata, ho fatto l'anno scorso. Perché ero sempre impegnato ad Alghero con la prima struttura. Cioè, praticamente, fammi capire, cosa... consiste il lavoro che fai tu per questa azienda? Io li monto l'audio, li monto le luci, scarico il campo, così tutto vuoto. Ho capito. Quindi fai il tecnico per installare sia le casse acustiche, anche il mixer, eccetera, eccetera. Sì. Faccio il passacavo, passo tutto quel lavoro lì faccio. Però non ho lavorato per gente molto più grossa, io anche ho fatto lavori molto più, cioè anche le foto, non so cazzate queste a Capodanno abbiamo fatto Ligabue pure, non è uno scherzo non fare quello. Ho lavorato 4-5 giorni ad Alghero, poi sono venuto a Sassari e ho fatto Reggae in Neck. Poi tutta l'estate ho fatto Gianni Morandi, abbiamo fatto. Poi abbiamo fatto, e ne abbiamo fatto concerti, Viaggio a Tornarci, ne abbiamo fatto un bel. Soprattutto anche allo quartiere, abbiamo fatto un sacco di serate. Ma è un lavoro che tu sai benissimo, perché io faccio un lavoro che fai tu, lo facevo come cugino. E quando c'era anche cosa, io entro la Baracchino Piuma e mi sono Iras, batterista. Stefano Principe Azzurro sono la chitarra, pianoforte. Complesso si chiamava, c'erano i miei cugini praticamente. Sovenero, Miri Pertas, eccetera, eccetera. È un lavoro che a me pure, fin fine, come cosa, una volta ne ha forse il papà. Ma è avere un lavoro che consistente, che ce l'hai ogni giorno. Io, nonostante che ho lavorato una vita sulle pensioni, niente, ma ancora me la sento, mi sento ancora giovane, di fare tanti lavori ancora, ancora per pochi anni. Quando poi non ce la farò più, giustamente, dico, beh, allora, che travaglia l'arte, si dice, allora beh, vado a riposare pure, non c'è troppo in Italia, per carità. Allora, già ho partito un po' a Giulio. Giulio, ripeti. Ho chiesto, sì, beh, certo. Sì, l'azienda li conosco sempre, da sempre li ho conosciuti io, anche perché c'era mio cognato che suonava lì come bassista, l'azienda, addirittura dei tempi di quando erano Sole Nero, che poi hanno fatto la tournée con Gianni Morandi, eccetera. Anche Gianni Morandi era venuto a casa, perché venivano tutti a casa di mio cognato, siccome mio cognato abitava a fianco dove abito io, per cui ero lì e li ho conosciuti tutti, li ho conosciuti. Poi, col passare degli anni, mio cognato si è staccato, non ne ha più fatto di musica, anche perché era entrato a lavorare un posto fisso ed era quasi sempre in trasferta, per cui non poteva più partecipare alle serate e alla musica di Tazenda. È successo così. Vabbè, comunque, io ho conosciuto tutti, Andrea Palosi, tutti quanti, i fratelli Poggi, che tutti indistinti, proprio dall'inizio, da quando hanno iniziato, che erano il Sole Nero, che avevano vinto un concorso qui in Sardegna, poi erano andati a fare il concorso nazionale, poi da lì hanno praticamente rifatto o rivivere Gianni Morandi, perché li ha ingaggiati Gianni Morandi e li portava in giro per tutta l'Europa e hanno fatto le serate insieme a lui. Vabbè, dai, io adesso vi devo lasciare, dai, vado a dare la seconda mano di questa vernice, così mi asciuga subito e stasera stesso me la completo, se no domani mi tocca riprendere il lavoro. Ciao Tony, grazie per la chiacchierata, fate sentire la sera, se combina ci facciamo due chiacchiere. Ciao a tu, saluto, grazie anche a te per la chiacchierata. se ci siamo alle prossime, ascolto il pedalino e dopo si è chiuso, eh. Si prende pure Tony, ascolto il finale chiuso, grazie ancora per la chiacchierata, se prendi. Ok, d'accordo Giulio, dai. Mi fa piacere anche a me, avete sentito, non c'è problema, dai. Ok. La sera accetto, se c'è qualche nuovo, qualche compra importante, ok, ci facciamo anche chiacchierata. Va bene, d'accordo, ti saluto. Comunque, carica mattina quando lo fare, saluto a Quarea, ci sentiamo alle prossime, state bene, avanti Antonio. Ciao Giulio, ci sentiamo alle prossime. Buon tutto. Buon tutto, ok. Da chi hai lavorato tu, con chi hai lavorato? Torino? Io ho lavorato con mio cugino quando era Sole Nero, capito? Quindi Bertas. Io andavo con il Bertas proprio quando c'era ancora il batterista famoso Antonio Zai, penso un po', ma io sono molto più grande di te. E loro suonavano a Continental, penso un po'. Quanto tempo fa? Lavorato, io ero una mano, ascoltavo la musica, ma non mi hanno mai pagato, ma a me non mi pagava niente, capito? Io il mio lavoro ce l'avevo, andavo fine settimana per divertirmi un po'. Stavo dicendo, l'abbiamo sempre quasi fatto noi, in Bertas, io lavoro con Roccauso, non so se lo conosci Alberto Paolo. Alberto Paolo, boh. Niente, io ho conosciuto proprio Andrea Parodi, quando era famoso in Bertas, mai così d'azienda. Quando ho fatto il concerto per fine a mio cugino in Piazza Italia c'era anche Andrea Parodi come ospite, io facevo parte dello staff eccetera eccetera, anche quando ho fatto pensare segni e ho fatto di cose, quindi no, ma ripeto, non l'ho fatto per soldi, io l'ho fatto soltanto, diciamo, perché loro c'erano un fisso, sempre un fisso avuto, lo facevo solo per divertirmi, sentire un po' di musica eccetera eccetera e basta, non l'ho fatto per altro. Qualche volta sì, se sento che ci sono in tazzetta, vado a vedere come c'erano le funzioni dei due anni fa, con già mi sono andato. Mi piacciono come cantano e quindi ci vado a vedere tutto qua. Poi fisicamente è una dell'icona, non c'è problema. E tuo cugino? Io lavoro con la ditta R, cioè con la ditta Alberto R e Paolo R che suonano, Rockhouse Blue Studio, lavoro con loro, forse conosci a cosa tu, che è uno dei vecchi, a Mondino Cornelias, lo conosci? L'ho già sentito ma non lo ricordo adesso, è parecchi anni che io questo nome non ce l'ho in mente, capito? Certo. Forse conosci, forse conosci Francesco Costa. Costa conosco quello che c'aveva proprio tutta la trattatura del palco. Certo, cose elettroniche, perché per 11 anni l'hanno fatto loro poi. Poi è ritornato con Rockhouse. Sì, cazzo. E a tu, mi devo sentire un attimo, sono. Mi hanno chiamato al telefono. E yeah, ciao. Hola, hola. Attenzione, canale 10, capo. Thank you. attenzione Radio Gabriele, chiama, ecco, ecco.